fruscia, doppio rum, fruscia. Credo che ci sia Claudio anche all'ascolto, ha detto aspetta, mi è sembrato di sentire una aspetta veloce. Tardi, perché? Che ore sono? Riesci a vedere? E se è mezza? Vabbè, certo, presto non è, anch'io credo fossero le 5 e mezza, invece no, ho tardato io a uscire. E vabbè, va bene, vediamo sempre qualcuno. Oggi vorrei anticipare, anziché mangiare alle 8 vorrei mangiare adesso, se no è una cosa allucinante. Claudio, ci sei? Sì, stavo per aspettare il telefono con Massimiliano. Ciao, ciao, buonasera, ben ascoltato. Ciao, ciao. Giù a Porto già fa la spesa. Certo. Oh no, sai che roba che conosci tu. Beh, se roba che serve, no? La prima volta, senza burri non rispetto quei soldi. Se lo faccio per tutta la settimana, come sento io, la carne, pesce, e tutto, verdura, frutta, di tutto, è quello che serve. Non ci vuole niente a spendere 100 euro già. Come mai tu c'hai burri? Perché cosa facevi rientro? No. Cosa già? Ho ha detto pasticci, cioccolato, ecco, mi sono qua. No, scusate, ero al telefono. Io ho detto sì. Stavamo pensando come faccio a resistere, ci sono arrivato, sono mangiato. Poi ho detto no, mamma, tu mangia pasticci, cioccolato, frutti, cose qua. No, già, il problema è quello. Che io poi stanotte ho dormito, per fortuna ho dormito bene, meglio per non dire bene, però comunque sia, se poi faccio colazione all'una, cioè non alle due di pomeriggio, è chiaro che posso resistere alle 6:30. Sono detto che io ho il fuso orario delle Los Angeles, mi sa che mi trasferisco là. Qua oggi no, ma qua ho preso un caffè poco fa, che ho comprato il latte, ho comprato un capolfiore, due melanzane, mi sono preso un caffè macchiato, poi spolverato di... però l'ho mollato un po' il cioccolato, perché veramente era una malattia, secondo me c'entrava qualcosa anche con la... con quella cosa, con l'operazione fatta. Sembrava patologica la dipendenza dal cioccolato e da dolci. Adesso ho ridimensionato tutto, anche lo zucchero. Nel caffè ho dimezzato le dosi, prima andavo due bustine piene, adesso una e un quarto, quando voglio proprio eccedere nel caffè. E vabbè, dai, adesso mi scaldo quella roba lì e mangio, dai, vai Claudio. Vai, scaldati la roba, fai tutto. Va bene. Pippo lo vedo da qua. Sì, un po' in salone lo stesso, sono entrato proprio fa, c'è un sacco molto, non si finisce più. Perché ha fatto il motore cancello elettrico, altre cose. Sono entrato poco fa, ho finito di mettere avanti qua e dice no, sono a casa, sono morto, sono morto, capito? E Pippo è lì, l'ho portato, anche lui è stanco, si è sdraiato lì sotto la TV nel suo lettino, ha già fatto tutti i bisogni, però verso le 8:15 così lo riporto e basta, già. Stanco, fa male tutto il collo di nuovo, la spalla, questa non so, c'è bugia che è molto piccola, così, che rottura di balle, guarda. Allucinante, no, il mio motore è all'interno e anche i bracci sono all'interno, capito? Sono all'interno, non fa saltare, sono i cani, c'è il motore piccolo, però il mio apre praticamente a Dante, capito? Non è scorrevole, forse non so se è come il tuo, questo di qua è scorrevole, con la guida, quello l'apre con le ante all'interno, vai. Abbiamo messo i bracci con il motore, ragazzi, c'è l'elettricista, io mi avevo già fatto le tracce, tutto, ho dovuto fare l'impasto per coprire le tracce, per coprire tutto, non quasi mai la spalla e il braccio destro, tutto perché ho avuto mangiare, non vendi, direi, lascia aperto, non volevo che sia tutto finito, insomma, tutte queste fesserie che chiamiamole fesserie già, ma a portafoglio aperto. Altri 1700 euro tra motore, bracci, il cancello ha costato 1200 euro, passa più lì. Poi c'è una scoma nuova e la stessa più brutta, però vivere una vita, non si è mai, una volta solo si era bruciato da un fulmine, non è stato cambiato il motore. No, io ho preso tutto dalla FAC, è arrivato da fuori dal continente, poi è venuto il tecnico stamattina, l'elettricista l'hanno montato, ma i bracci sono molto robusti, il cancello vabbè non è pesante, però è un bel lavoro, è stato fatto un bellissimo lavoro, capito? Ho messo la fotocellula, tutto, le tracce, tutto fatto a regola d'arte, tutto fatto a regola d'arte. Non ti dico la parola, che fare in inglese? Non so cosa vuol dire, però se il motore della FAC e i bracci sono della FAC, non ti posso dire il contrario. Magari se la vuole trombare. Ah, così vi soddisfate entrambi. E beh, anche quello è buono. Poveri cani, come fanno? Se non trovano una compagna o una cosa temporanea, come fanno? Almeno, vabbè, l'uomo, c'è Maria Mano, ma è lì, problematico. Io già gli rispondi, gli avevo risposto, guarda che Filippo una cucciolata l'ha già fatta, non ci ho rimesso ma quasi, e basta, l'ho finito, sono French. Tra svezzarli e tutto, col patto mi è costato una barca di soldi, più 300 euro ho messo per il parto cesario, alla fine cosa hai guadagnato? Non hai guadagnato nulla, adesso se vuole continua a farsi le seghe. Ecco le zampe come si fa, vabbè che non scegliamo in particolari. Ma chi Filippo? Sveglia Filippo, tu masturbandosi non ti metti a ridere, è un cristiano. Si abbassa leggermente dietro, abbassa leggermente il sedere, e poi ci do che ci do, capito? Come che stia facendo l'amore, uguale, preciso, 2 secondi, tu, e poi si rimette nuovamente in come se niente fosse. Oh, come conigli, 2 secondi ha finito, caspita. Cosa deve fare? Vuol dire per lui è così. Si masturba molto, è un periodo allucinante, poi come vede cani femmine, anche da lontano. Prima se le guarda, inizia poi lo vedi, vai, tutum. Invece, sai dove fai per toccare, amico, è fuori di strada, cerca di sorta, c'è tutta la roba, non è fuori, è di strada, cerca di passare il proprio lavoro, c'è sempre quello, una pochetta se la roba già molto durata, e la padrona ha avuto la strada, che cosa abbiamo fatto, anche non lo so, è un prego, non lo so, non lo so, è un prego, perché se no, qui a casa. faccio non devo insegnare niente sui cani, sei preparato, Marco, magari c'ho poca esperienza, devo rimbiare i gatti, e va bene così, in quanto sia amante degli animali, però i cani quando nascono, capito, non va. Per me Mario un tempo, ma ne abbiamo perso un bel. E poi non va bene, no, io manco la faccio avvicinare a Filippo, non tanto se le guarda, non... assolutamente. Una gli ho fatto a fare e non lo voglio sterilizzare perché il veterinario non vuole, anche perché diventa un grassone allucinante, capito? Siccome ancora deve qualche mostra deve farla, almeno quest'anno, poi basta perché il cane è già grande, però così va bene, se no diventa un ciccione, capito? Diventa un ciccione. Niente, nulla, no, basta così, Marco, non è che ci ho rimesso ma non ci ho guadagnato, quindi non mi interessa, basta, l'ho finito, se vuole, te l'ho detto, si basta, continua a masturbarsi e basta così. E di cosa? No, lui, abbassa quelli che ci sono, ce ne già due, poi a parte il fatto che... Io ho già messo le cose in chiaro, Gianni. I suoi quando andrò a abitare io, i suoi stanno dentro dove lui ha preparato il posto, ok? Il mio sta fuori, e continua a stare dentro casa, perché è casa mia, il mio sta dentro casa mia. E i suoi staranno dentro quando il mio sarà fuori, loro stanno dentro, quando il mio, capito, non lega molto, no, figlio, non trovo da uscire Filippo, no. Anche stamattina, capito, è andato, è partito, loro erano dentro, tutte e due, perché poi sono molto, molto tiriosi, molto affiattati, capito, visto che stanno sempre assieme, e quando io sono sceso la macchina, ero andato a Filippo, è partito direttamente al recinto, e si è tutto attaccato, loro tutti e due sopra la rete, perché non possono, non è una rete da galline, è proprio un recinto, una recinzione fatta a regola d'arte, ma lui messo i piedi nel murettino e proprio se erano liberi si ammazzavano, quindi io ho messo già le cose in chiaro, se no non capito. Posso stare qua, te lo dico in altre cose, Quindi mi sto già iniziando a girare le balle, mi sto dentro che è tonto con questi cani. Mi sono convinto di va a Luganire di Portobello. Poi non sono cani quelli, non sono cani Gianni. Cane può essere il mio e il tuo. Quelli ce li vedi, sono due asini già. E se prendono una fippa fanno a pezzi in due, capite? In due. Uno la giura, uno e uno. Lascia perdere. Cioè non sono cani. Cioè uno non compra un cane, compra un cane. Poi ha comprato due asini. Due cose allucinanti. Cioè tu non hai idea di cosa sono questi cani. Se ti faccio la foto di quel cane, tu dici questo è un pazzo. È un pazzo. Cioè ti sto dicendo che il paese canario normale, dritto, camminando, la spalla le arriva allo sportello della 600. Hai capito? La testa c'era grande quanto lo sterzo. L'altro non va vedendo. L'altro c'ha le zampe quanto il cavallo. E sono due, praticamente sono uno sopra, uno sopra, però il resto è tutto condiviso, capito? Quindi diventa un problema, cioè se tu liberi i cani, ok, devo rimanere lì, vabbè, io non ci sono, farò un gatto di biazzi, ma se c'è anche il mio, tu liberi tu, io devo liberare il mio, dimmi cosa succede. Ciao, per una villettina in miniatura, no? Fa in scala 1 a 100, ok, tutta recintata con mura secco e tutto. Questi cani hanno la casa, lei la cuccia, uso, e ne manna 8 metri per 6. Iniziando, vabbè, ne parliamo in un'altra occasione. Comunque, vabbè, io infatti, quando è? Domenica mi siete primi, va bene, perché io ho dovuto lasciare Filippo a casa. Infatti, dopo pranzo me ne sono rientrato, di solito io andavo dal sabato e ce ne ritrovavamo il lunedì mattina, capite? E invece proprio per stare col cane, per abituarlo, e lui è un fasciarli perché era solo. Ma ci arrivi di inquilini, perché loro si sono trasferiti, quindi si è portato i cani. Buonanotte, Ugallaro. Thank you. passioni sono passioni, va bene, però io nell'arco di tanti anni, certo, guardi, ne ho comprato tante, poi basta, poi mi sono bloccato, già un paio d'anni io non compro più niente, perché? Perché c'è un obiettivo da seguire, e quello è, cazzo, quello devi seguire, o fai una cosa o fai l'altra, se poi vuoi abitare sopra le radio, che ti bosi, nata le radio, con l'ombrellone, ti muovi l'orito, nata le radio, se l'obiettivo è quello, fare una bella casa e finirla, quello che sia, eccetera, non è che puoi spendere soldi nelle radio, la stessa cosa equivale per chi deve raggiungere quell'obiettivo, c'è un gioco di sanguardo, mi già, c'è un gioco di sanguardo, se tu mi bugni non ci manco più sangue. Sai, no, ce l'abbiamo tutti e due il cane, non è che ci stiamo lamentando, per carità, è come, oramai ci abbiamo due figli, perché per me Filippo è come un figlio, come per te Tyson, e spendo volentieri soldi per il cane, va curato, va fatto, va seguito, ma uno però, ma non lo vai tre cavalli, chi ci sono tre cavalli, fruiscimi, recuciomi, ci sono tre cavalli già, tre cavalli, capito, va bene così. Vuol dire che gli obiettivi non li vuoi raggiungere, ma chi sui sono? Thank you. rispetto è un cane, no, non c'è niente da fare. Sì, beh, il suo vero nome è Amstaff American Bull, certo. Poi c'è Amstaff American Bull Terrier, Staff American, eccetera, eccetera, ma il nome suo è quello. Allora, guarda, 8 anni fa, ti racconto un particolare per farti capire, mia sorella a Fertilia c'ha una campagna con la casa, tutto, dove a volte andavano, anche adesso sta andando pochissimo. Comunque, ha fatto grande un quelli bianchi, come si chiama? Pastore, come si chiama quello? Come si? Ira! Ira! Che razza era quello di Gianfranco al cane? Ehi! Che cane che ha morsicato a me, che razza era? Ah, non è male, scusa. L'hai mai visto il cartone animato, cos'era quella? Bene Sebastien, no? Grande così, un orso bianco, bellissimo, da grande, piccolino, era un battuffolo di cose, sono troppo belli. Questo cane a me mi conosceva, quindi lo avevo mangiato da piccolo. E poi anche quando andavo lì d'estate, perché stavo molto a Fertilia, c'era cioè a casa della mamma, praticamente lo davo a mangiare anche da grande, affettuosissimo. Mi è capitato, eravamo d'estate e c'era un pezzettino di erba che non mi piaceva, ma ce l'ha mai trovato la taglia, ho detto vabbè dai, un altro non c'è sulla testa la taglia, poi però non te la lascio, la Raffaella te la metto anche la busta. Attorno a me adesso prima taglio l'erba, poi do a mangiare a Balusci, chiamato maschio, ma bello. Bello era a dire poco, bellissimo, bianco, bianco, bianco, tenuto come un lenzuolo, anche perché stava sempre dentro casa, fuori ci stava poco, stava bene la veranda, però sempre pulito, non ti faceva avvicinare anche lui, il cane da difesa, nel senso che difendeva il suo territorio. Beh, per farla breve, tagliato l'erba, ho messo a mangiare il cane e poi gli ho cambiato l'acqua. Ero a un paio di metri da lui già, un orso, stai attento, un orso, più di 40 kg di gambe. Ho detto, ma cazzo, duro, forte, massiccio. Ero a 2 metri da lui, lui ha mangiato e stava bevendo. Io cosa ho fatto? Ho preso il rastrello per rastrellare l'erba. Cioè, sai chi so. Come ha visto che ho preso il rastrello, non ci ha pensato due volte, no? Si è girato di scatto e mi sa gran faro braccio. Gianni mio, un dolore. C'avevo, cazzo, 4,20 dentro il braccio. Mi hanno messo 6 punti sopra e 6 punti sotto. Se no, perché cazzo, mollami che me ne stacchi il braccio, cazzo, ho preso la bocca, gliel'ho aperta, l'ho dato un calcio e è sparito. Io ho detto giangolone, poi sono andato all'ospedale civile ad Alghero e mi hanno messo il punto. Per dirti, un cane che io ho visto da piccolo e da grande, lo portavo in passeggio, a guinzaglio, a Fertilia, ma musci gaddo, se non le apro la bocca, che straccia me ne tira il braccio. Per dirti Gianni, il cane va rispettato, questo chissà cosa cazzo ha pensato, c'è questo a prendere il rastrello per tirarmi la testa, ma stava bevendo da 2 metri da me, si è girato di scatto, non ho visto altro che la bocca, i denti, il gatto da 20 centimetri, i tramezzi 30 lo braccio, ho ancora i segni del braccio sinistro, cioè i segni del come rimangono i punti. Qualche giorno te lo faccio vedere, si vede proprio il segno di sotto e di sopra dei denti che ha preso sopra e di sotto. Già, se tira e si muove il cane, me ne stacca il braccio. Come si vede che sta già sto dicendo che il cane è cane. Il cane è cane, ed ero io, era mia sorella, eccetera. Se trova qualcuno lì in campagna, amici e cosa, passa guai forte, mi ha detto. Passa guai forte, no, infatti non autorizzazione, tutto, perché all'ospedale cioè, l'hanno visto che era il morso di un cane, no? Insomma, quindi io l'ho detto, sì, cane mia sorella, così e così, hanno fatto tutta la relazione è portata al veterinario, è andato al veterinario e purtroppo ha sofferto molto, mia sorella mi è dispiaciuto tantissimo, però purtroppo l'ha battuto il veterinario, con tanto l'autorizzazione, l'ha battuto perché se trova un bambino o un'altra persona, già, gli stacca il braccio, gliene stacca e fa il braccio a brandelli. Oh no, un pastore maremmano. Sto dicendo che sono il cazzato nero, perché no, a parte di su e fa quello che le piace, però sono degli obiettivi da rispettare, le cose che stiamo facendo assieme bisogna rispettare. E poi la mia paura è che questi cani lasciati sciolti fanno l'anno, lo vanno, lì se non mollano i miei. Già, guarda, quando vai in campagna ti faccio le foto e mi dici questo è un pazzo. Ti sto dicendo che Giuda, presa canario, arriva al finestrino della 600. Tu prendi le misure, non ti fermati davanti a una 600, e prendi le misure da terra, arrivare a dove abbassa il finestrino, alla fine dello sportello. La schiena le tocca lì. Vedi tu. Cos'è venire, già, cos'è venire? Su del rame, impari, cos'è venire? Cos'è venire? Anche lei è... glielo dice, ma lui è dove è fatto, così. Non usaccio. Vabbè, comunque, io ancora ho altre cose a fare, però d'estate voglio vedere cosa succede. Quando faccio la Casabiena, mentre l'hanno abbassato. A vedere che i cani se vuole rimanere sempre chiusi. Vediamo. Sto aspettando l'estate io già. Tanto io vado a giugno, ma vado lì. Poi vediamo cosa succede. Basta uno, perché io vedo vedo anche Filippo, chiaro che va gestito, no? Non è la prima volta che Filippo va in piazzale e fa la cacca, per dire, o fa la pipì. Io raccolgo, butto via, prendo la pompa, lavo, che piazzale fa tutto il cemento, quindi si vede. Ok, qui ci sono due sciolti così, cioè tu immagini una gaggata di un bergiacanario, pare un insagnara di gojo, eh? un chilo, 2 chili di merda. Immaginati tutto il piazzale di tu gaggato da Lugano, non c'è mai lì, perché sta sempre lavorando, la verità. Cosa giù di fai? Lo babysitter ai cani giuri. Di incazzarmi per la parità, non era questo sistema, vabbè, comunque ci vedrà alla fine, vedete che rimane giù i tifi, perché poi io mi stufo, io già c'ho un carattere molto, ho cambiato molto, sono molto più tranquillo, sereno, rilassato, anche perché sto molto meglio fisicamente, moralmente, eccetera, eccetera. Però, cazzo, non è possibile andare a mettere i gani. È un lavoro, capito? Da uno battava, uno, non so tre. Sono sicuro non si ferma lì. Ma la letteraria che Giuda in piedi è 2 metri. Io mi piego, io sono a 70, mi piego, no? In ginocchio e le passo sotto. Oh, ma guarda che bravo, è bravo, però è chiaro che con Filippo non va d'accordo, anche già Filippo ti ha aiuta, ha pigliato un golpe, così mi si è girato, ha detto non ti permette di mettere con la testa, ha proprio dichiarato, ha fatto un buco in capo, ti ricordo, e meno male che c'era Mario, mi c'era lì qua davanti, e meno male che c'era Mario, se non ci fosse stato Mario mi avrebbe crepato il cane, perché come ha aperto la bocca sua già stava coprendo la testa di Filippo, e Filippo c'ha la testa grande, tu immagina di dove sei. Tu ce l'hai presente il Bull Mastiff? No. Devi guardare, perché l'aria mette, il Pesa Canario è un nome diverso, però la razza vera e propria è un Bull Mastiff. Quindi immaginati di tu, Bull già ti dici tutto, già ti dici tutto, tanto aggressivo e sciogare. Questo che mi hai mandato cos'è? Sì, questa qui è un'America Straforsetteria, questo, ma se riesci a mandarmi la foto di quello lì ti rimando quel cane che c'ha Mario, qui invece c'è un cane da tenere a casa, dice. Un aschi? Oh, quello è un samoiedo, quella foto che ti ho mandato, quella è un'altra cosa, quello è un facciamo ieri, quello è un cane da neve, un orso, mi me la mandate l'aria, adesso te la mando, guarda. Non siamo ieri già, guarda questo cane, se l'ho mandato, ecco, te l'ho mandato, guarda, e questo è più o meno, tu lo vedi la foto, se lo vedi dal vivo fa paura, sì. Fa paura. Guarda la testa, fa mandamela. Ti mando qua, l'ultima foto che è seduto in macchina, ecco fa le mani. Sì, sì, ci sono 7 metri, tanto fra un po' porto a lui. Mandami quella foto già, l'hai mandata, no, non è arrivata tanto. No, quella è proprio dal vivo seduto in macchina, usato. Beh, da due c'è un cane a dei figli. Questo è proprio il suo, che c'era una foto di seduta, ma andiamo a Riviera Gappotta, tocca la testa a Riviera Gappotta, non so se è seduto, vai a Gabbo, LOMI, Gianni, un cane eccezionale, bellissimo. Chi è che ha salutato non l'ho riconosciuto, buonasera. Sì, sì, lo conosco il logo del Bordeaux, sì, sì. Però Ilaria mi sta dicendo noi si assomiglia molto, orientativamente. Però è bellissimo, ti ripeto, è bellissimo, con la B maiuscola, però io preferisco sempre il mio, che è piccolo e gestibile. Chi è che ha salutato? Avanti. Buonasera a tutti, persone di amore. Che radio brutta che fa lei, che radio brutta che è, io ti seguo a volte provando baracchini, radio, cazzo con tutti i baracchini che hai, non ne hai, uno che esce, io ne ho provato 10 con 10 microfoni diversi, ma non ho detto, nessuno crede che io, sembra che stia usando sempre il K, tu chissà volte oltre tomba che sei, ma stai usando? Sto usando un baracchino della ICOM, il C7007. Ma cosa ci posso fare? È la voce, tra l'altro, l'ho spiegato anche l'altra volta. No, sono lontano, sto parlando da lontano, sto da vicino, però posso stare inchinato così. Ma l'M100 stai usando come microfono, 200? SM20. Mamma mia, gagada. Io guarda, col 756 esco meglio col microfono normale che con l'SM20, Walter, anche in AM, attento. L'SM20, forse in banda laterale va bene. No, in questo apparato va bene dappertutto, perché sto uscendo male. Sei troppo cupo, sei stretto, non sento tonalità alte, non non so Gianni se è d'accordo, se si cupo, sento solo bassi, non hai un acuto di niente, sembra tutto impastato. È quello perché devo regolare il mio soffare, c'è un menù con mille cose, parametri, ma gli altri mi conosco bene. Evidentemente, va così con me che viene di più alto va meglio. Sì, però potresti migliorare magari nella parte dell'equalizzatore della radio, darle un po' più di medio alti, perché c'hai troppo medio bassi, troppo chiusa la modulazione, capito? Solo quello, poi per carità la modulazione è abbastanza chiara, però per come la vedo io, per come piace ascoltare a me, hai troppi toni bassi, devi dare più acuti, da qualche parte devi tirarli fuori. Vabbè, poi lo vedremo, non ha tutti nulla. State parlando dei cani? Sì, non ce li ha più, bel cane, però molosso non mi piace, è troppo pericoloso. C'è il pastore tedesco, è uno bastardo che è bellissimo, piccolino, l'ho cercato apposta, piccolo, che non cresca, ma è furetto, cammina, musica il gatto a culo, è terribile, non sta fermo un attimo. Insomma è classe, ci salvo anche quello, ma il passato tedesco era stato morso e l'ha prendato in due. Gianni, mio amico, era da paura, ma forse il cane peggiore, il cane più grosso che ho visto io. Guarda, se te lo mando, è da paura quello che c'è Mario, da paura. Ma è un cavallo, la Filippo che passa sotto, io ho il bulldog inglese, che tra l'altro è un bulldog inglese fuori Italia, non è come quelli bassi, Filippo è abbastanza alto, è alto quanto quello che c'ha Gianni, un cane normale, ma pesa 30 kg, e passa sotto, un giorno, perché le stava rompendo le palle, si è girato, ha aperto la bocca, il bulldog inglese ha la testa grande, e praticamente come ha aperto la bocca non vedevo più la bocca di Filippo. Certo, no, già è grande, però penso sia più piccolo di quello che ti dico io. Vai su internet se trai, scrivi pastore del Caucaso e poi ti rendi conto, è un cane che attacca gli ursi. Non c'era anche Mario quello lì, ma poco fa è sito il questio. Certo, non le bastava uno, si è preso anche quello, il pastore del Caucaso, capito? Adesso si è preso, si è ordinato, cazzo, non mi ricordo come si chiama, il Samoiedo, cazzo, poteva essere un Savoiardo, no, un Samoiedo. No, è pastore del Caucaso, ma cosa c'ha, piccolo lui, il cucciolo? Sì, c'ha già quasi un anno, c'ha. No, è più grande di quello che hai detto prima, del cos'era, il bull mazzi. Sì, più grande, se c'ha le zampe, cazzo, quanto è un cavallo, già. Il pastore del Caucaso già mi aveva avuto 12 anni e veniva qui in campagna, tu pensa, un giorno c'erano tutti i cani in randaggio, una decina, no? È uscito dal cancello, Tezio, come cazzo si chiamava, sto pastore del Caucaso, tutti i cani intorno, abbagliando, lui ha fatto solo così, spariti. Hai sentito già, se ti sto dicendo che non si può, non ti puoi avvicinare 2 metri al cancello di casa sua, non ti puoi avvicinare, tu immaginati l'ho detto, il giorno, cazzo che ti rimetti chi chiude il cancello, esce quel cane, fa una strage di cani e di persone, tu sei un pazzo. Che buffo che è, proprio perché sono così, i cani sono belli tutti, però esagerare no, quelli non sono più cani, stavamo parlando con Gianni di questo, che cazzo, cioè devi stare molto attento perché non è un cane da giocare, è un cane che se ti musicheggia ti stacca la cugiola, capito? Come stasera ci stacca la cugiola Atletico Madrid. Guarda che il pastore del Caucaso può non piacerti, poi bisogna vedere perché ci sono vari mantelli, come si chiama, no? Pigmentazione del pelo, c'è quello nero, quello come l'orso, grigio, fuocato, pesa da 50 a 90 kg, per farti capire, la femmina è alta 70 cm. Al garreggio è un cane da io l'ho avuto già anni allora sempre, ultimamente stava quando stava per morire aveva 10 anni 12 c'era divenuto il morbo come si chiama no l'epilessia aveva la pastiglia sto entrando nel cancello con la BMW cazzo di mezzo alle balle allora io cosa ho fatto mi sono piccolino ho spinto un po' con la macchina ma è l'avessi fatto ogni volta che mi vedeva mi ringhiava, non vedevo l'ora che morisse. Certo, quelli che aveva Claudio, non me li ricordo, quando già avevi il capannone a Predanieda, uno dei primi dai, che non ho recintati, i cosi, come si chiamavano quelli lì? Cane corso. Cazzo il corso, maschio e femmina, Gianni, la paura, due orsi, cazzo ma dai altri animali, allucinanti. Nel pastore del Caucaso te lo dicono quando lo compri, li aveva portati Giovanni Corso, quel tuo pastore. Gianni, poi ce n'è uno a Padova, ce n'è qualcuno in giro, rinchiusi. Te lo dicono prima, è un cane che deve dedicargli molto tempo, è molto leale, affettuoso al padrone, è un cane da territorio, è un cane che guai, non teme niente, attacca gli ursi, leggiti la cosa del fatto del cazzo. Ce n'è anche un altro che è cattivo, più cattivo di lui, forse è Magla, adesso non mi ricordo la razza. Ma io di quelli che ho visto, ne ho visto uno a Londra, mi sono spaventato, anche più grande di quello di Gianni, no, un pullman. Di questo stiamo parlando, è un pullman, c'è un anno, è pesa quanto è quello grande, quanto è quel pesa canale, io lo chiamo così, tante chi su pesa, e va un anno, tu immaginai già di questo cane quando avrà 4, 5, 6 anni, un pullman, c'ha le zampe Gianni, non guarda che non sto scherzando, c'ha le zampe, se tu togli lo zoccolo dal cavallo, c'ha le zampe quanto il cavallo, già, per carità, anzi di una lampadica, vabbè. E del resto è tutto a posto, sì. Aspetta, devo rispondere al telefono, fra un po' vado a portare il cane e poi c'è la partita. Ah, sono le 8:15, ancora non gli devi dare la battiglia. Sì, al telefono. Ciao amore, vanno bene i cinesi, cazzo, che si rimangiano. Sono qua già. No, mi mancano le scarpe, adesso fra un po' porto là. Guarda, sono le 8:10. Tra 10 minuti vi dai la partita a Tyson. Io poi giro un po', poi scelgo tutto perché stasera c'è una grande partita dove la Juventino penso che la Juventus sia fuori dalla Champions, che l'Atletico Madrid di cui voci. Ma sono tirato fuori il carattere adesso, io pure sono di malumore. I miei amici di Modena sono partiti in greffa a Torino. Qua è che sono incasinato, se no avevamo deciso mio marionino di andare. Avevamo deciso di andare, però lui già lo sai, è incasinato, te la faccio lì, io che non li voglio bene con tutte queste cose che sto facendo, e quindi vabbè. Per consolarci ci abbiamo fatto i biglietti per il 2 aprile, Cagliari Juventus. E a Cagliari andiamo, gioca alle 8:30, pazienza. Lasciamo giocare alle 3, poi rientrare noi presto, invece dobbiamo rientrare di notte. E andiamo a vederci. Caro Gianni, hai capito? Hai capito su Gianni? Io dimo più che su l'altro, che su il pastore del Caucaso che è l'altro. Quello lo temo io, quello lo temo perché quello quando è grande è un osso, è già un osso adesso. Io per l'osso di sospetta se fosse il colore. Bianco, latte, bianco, sempre bello, poi tutti i giorni lo spacco, dice quel cane che è bellissimo, però è un cane che io ho paura già da adesso. Cazzo già, bianco è bellissimo, c'è lo sciusciu di Leonora, la figlia di Walter, io l'ho visto piccolino, appena l'aveva comparato, ma è una cosa spettacolare, lo sciusciu bianco, ecco, bellarello. No, bella, poi lo sai che l'ho portata io da Firenze, no? Dove l'ho comprata in nave, abbiamo passato una giornata insieme, però l'ho subito a mia figlia, bella, a tutto oggi io vado dopo un mese, a casa due mesi, mi riconosce, mi fa le feste, non ne ho un'idea, ed è anche forte come cane, non vedevo così, era una forza molto forte. Se porterebbe ogni mandibola di sacro, l'ho visto, non l'avevi comprato, hai fatto vedere foto, bellissimo, quindi me lo immagino adesso, poi bianco, è troppo bello, e poi cosa vuoi finire? Ah, che ne so, forse vuoi riuscire, ah no, vabbè, adesso ti può, vabbè, quindi tu pensi che possiamo fare i 3 gol? No, bianco è bello, anche se tu vedi il bulldog inglese, adesso Filippo vabbè c'ha il colore del tuo che è bellissimo, col marrone lucio e tutto il collo bianco, col muso bianco, Ed è bello, ma se tu vedi il bulldog inglese bianco, come l'ho visto io sono atti 6, due erano bianchi, ma soltanto sono belli, ma belli veramente, bianco è il colore eccezionale per il cane. Ma non so solo che è buono. Filippo è preoccupato, Filippo c'è il latte bianco, sempre c'è delle calzette, poi vedi la nonna, beh, c'è il muso bianco e il collare bianco, però il colore sciolto, cosa c'è? Dai, andate piano, e mi sta leccando il piede, vuole uscire, dai. Salutami a Walter, io chiudo, ok? Ciao Padri, già ci sentiamo, ogni tanto passa qua nel 10 a salutare, che non ti fa male, ok? Io già lo sai, nel 20 non ci vengo. Sono le 8:05 già, stai attento, se vedo della Bastiglia dagliela in orario. Ciao ragazzi, chiudo con la porta del cane e poi mi dedico alla partita. Sarà tutta l'Italia seduta davanti alla TV per guardare questa Juventus che oggi ci buttano fuori dalla Champions. Ciao a tutti! Ma se molti saranno contenti, perché sono antisportivi, anti-juventini. No, basta un attimo, mi chiamano a telefono ogni tanto. Va bene. No, a volte siamo qua, vedi, che chiacchieriamo qua, sanno io sono sempre qua, quindi vengono qua, ma se capita qualche giorno che passa a salutare. Ma vi ascolto a volte quando sto facendo qualcosa, come tecniche di trasmissione, e sento belle radio, belle cose, a volte qualcuno che è tutto impastato, però già va bene lo stesso. Ciao Gianni, un abbraccio, ciao anche a Walter, ciao a tutti quelli che stanno ascoltando, ciao amore, porta Juve, attento CR7. Sono qua con il socio, tu chi sei? Ciao Antonio, vabbè. Io sono rientrato adesso, ma c'è invece, non c'è più nessuno. A me è alle 8, chiudono. Allora, ciao Fabio, sentite, saluto. E me cosa stai combinando? Nulla. Ho trovato la sposa, la dopodiché, stamattina mi sono... Cioè io sono uscito a fare con quel vento che c'era fuori, ho cazzo, ma cosa ho fatto, cazzo? Ho messo il ginocchio un po' e in terra appena mi sono alzato. Cazzo, un dolore. È arrivato così. Sembrava che mi avessi tirato un coso, un calcio, cazzo. Riuscivo a tenere la gamba di vita. Punto prendermi la bustina e aspettare 2 ore e mezza per calmarmi. Tra il ginocchio e la cuscia, cazzo, al centro, ma un dolore, non ci vuole, andate a prendere il culo, gira. Reumatismi, la vecchiaia. Vabbè, io c'era un vento puzzinoso, freddo, cazzo, sembrava così, invece, ma a me adesso c'era di meno, c'è ma è di meno, adesso mi sembra domani o tornare che piove, quindi figurati tu. Vabbè, domani piove. Sì, dovrebbe piovere, ma domani o dopo domani. Vabbè, vabbè, che ho guardato, no? Vabbè, lascia fare, la fa bene. Vabbè, quello sì. A voi, a voi, a voi. Giuseppe, siccome mi è arrivato un messaggio stamattina, ieri sera, dalla chiesa che c'è qua vicino, e c'erano dei posti di lavoro, 200 posti di lavoro come generico, ho preso il generico, gli ho fatto fare la domanda, speriamo che lo prendo, a me se la piglia in culo il rei, se il rei e rete di cittadinanza, a me lo tranquillo. Adesso se ce la faccio domani lo faccio anch'io, la domanda lì. Non so come di diavolo sia, questo coso di operaio, non c'è scritto nulla, niente. sia di Italia Volo, ma se devi fare quello, se devi salire sopra punteggi, se devi fare i canteri per dire quelli per di via Milano, tipo Manovalo, non c'è scritto nulla. Sì, vabbè, devi portargli sicuramente, devi portare un trucco e presentarti là, poi ti diranno loro cosa devi fare, cosa non devi fare. Poi se c'è qualche corso da fare, però, sicuramente ci sono i corsi da fare, che li fanno mettere da voi, dopo a tempo libero, va? Dice che sono 4 ore al giorno, ma l'altro Giuseppe. Così gli hanno detto, ci sono 4 ore al giorno, quindi sarà fino a 700 euro per l'anno. E capite, sono 4 ore solo, quello che li sono pagati. Il discorso è quello di... Lo sei Antonello, 400, in qualunque maniera non hai niente, è difficile, almeno quelli ci sono. Vabbè, 400 li piglio già io adesso lì, così come sono, ma figurati tu. Ah sì, sto facendo la documentazione per la pensione, perché con questi nuovi qui io non ce la faccio più, cioè se io vado a fare male al sono sicuro che dopo una settimana crollo, dai dolori, capito? Quindi adesso mi sto facendo tutta la documentazione nuova. Il problema è che con l'aiuto del medico, perciò ha aperto di farmi la impegnativa per me, e ci ha messo il nome del mio fratello, cazzo, 4. Me ne sono accorto quando si mi è venuto in mente, ho detto, ma adesso mi devo detto quanto devo pagare il ticket, cazzo. Ho guardato il ticket in toro, esenzione C1, mi sembra strano, certo, l'esenzione non ce l'ho, io ho detto, non trovo il nome del mio fratello. Se non mi presentano nel mio suo, per stato magari gemello, stato quarto, ma presentando così a nome suo, se è andato meno in galera. Ma non va bene così, non va bene, ricchi tutta la galera, ha scattato. E quanti anni hai di contributi, dottore? C'ho i contributi, 12 anni dovrò avere i contributi, capito? Fatti da tanto tempo fa. Tra usaio e roba del genere, solo che la causa di usare una prescrizione, quindi mi sembra che ne ho 6-8 anni, non di più. Ma allora non te ne danno di, anche se fai lavorare non ti danno niente, perché ti mandano solo a vecchiaia, ti danno quello che hai lavorato, il contributivo che hai lavorato, basta, ti danno. E su tutti i punti, se avessi avuto almeno una trentina d'anni sarebbe stato diverso, ma con quel cugino ti danno niente, non ti mandano neanche in pensione, figurati. Ah, ma cosa c'è, non sarebbe male, anche se dovessi farmi per dire entrare con il livello. Ecco, quanti anni riesco? 80 anni come mio, per arrivare a 400, non è possibile, quindi... in pratica lavoro gratis, no? Lavoro solo per prendere il stipendio e basta. È come se mi fosse dando un reddito di cittadinanza, in teoria, perché tanto pensione mia, mi danno, l'unica pensione che posso dare è quella di 500 euro a 65 anni, se la tocca in culo. Guarda, se hai 12 anni devi andare a 90 anni in pensione a quota 100. Sì, ma è così. È così. Ma adesso, se avessi vinto la causa, allora sì, sarebbe stato un discorso diverso. Me ne sarebbero stati bastati 20 anni e sarei andato tranquillo. Infatti è così. Alleluia, sarebbe bello, vabbè, purtroppo quando non c'è lavoro una persona ricerca tutto, quello già è vero, però quando non tocca, e non li danno, già non vogliono mandare in pensione quelli che rispettano, che hanno fatto già i contributi, figurati quelli che hanno contributi poco. Non è che cosa, cioè, ma è una cosa. sono quello che conosco io, Mario Chichine. Facevo lavoro in nero, cioè in nero, lavando la pizza, non ha mai pensato nulla all'Inps. A 65 anni sono andato con la pensione di 500 euro al mese, capito? E basta. Quindi, sta pigliando la pensione sociale. Esatto, la pensione sociale, quella... ti danno una cavolata, ma la più bassa che c'è ti danno, in questi anni, tu quando arrivi a 67 anni, fai la lavorata, anche se non c'è quei pochi contributi, ti danno sempre la sociale. Sì, ma 65 mi sembra che era. L'anno scorso era così, ci siamo in 65 anni, potevi tranquillamente fare la domanda alle poste e ti davano la carta e lui ti dava i 500 euro di mese. Non ricordo, io la tua e ho preso una manca, ho detto, io 55 e ho preso una manca a voi, ho detto, di anni, gli ho detto. Però... No, sono 67 anni, devi andare, devi fare la nuova legge, prima non te ne fa. Questo bisogna avere, perché secondo me, gli avrei Luigi Di Maio, perché la Fornella ha cambiato tutto, quindi a un certo punto bastava anche il 67% di validità e ti davano la pensione, poi sono passati al 77-100%, quello che mi aiutava a lavorare, ragazzi, per poter avere... il 100% può essere accompagnato per avere 700 e passa euro di pensione, hai capito? Il discorso è quello. Tutto lì. Speriamo che Di Maio cambi tutto, questa legge che ha fatto la Fornero, almeno danno la pensione a tutti, l'aumentano, almeno spero. Mio fratello mi piglia 240, capito? Gli altri per l'accompagnamento per che cosa? Perché... quando è stato ricoverato in ospedale è passato 30 giorni, hai capito? Ma quindi che va lì, l'assenso sociale, gli altri dice no, dice qua non può stare, sta bene, capito? Vuol dire tanto che fa casa, secondo te stavo, no? Poi va lì, da un ospedale all'altro, finché non l'abbiamo portato a casa, adesso è a casa e abbiamo il suo dire comune, però paghiamo l'abbandante, capito, per lui. Con me si ritira intorno ai 1000 e qualche cosa netti, hai capito? Si fa 8 ore. La pensione dei buffi di dati a te. Magari, magari. Oh, ciao Claudio, la pensione si crede. Mi sa che già lavora fino a 80 anni per avere la pressione adesso. Vabbè. Beh ragazzi, ho entrato a salutare, ho lasciato la radio accesa, poi cazzo c'eravamo io, Gianni è entrato anche Walter, Marco c'era, però è già tardi, dai, sono rientrato a portare il cane, adesso ceniamo, poi c'è la partita Juventus Atletico Madrid e ci guardiamo un po' di sport. Un abbraccio a tutte e due e buon fine serata, dai, alle prossime, riprendi fra. Via, ciao fra. No, io sono rientrato poco fa, erano più delle 8, ho le 8 qualcosa, ho acceso, non c'era nessuno, ho fatto una bussata, ho sentito il bip di Antonella, allora ci siamo messi a chiacchierare. Comunque, ciao, buona proseguo di serata, buona visione di televisione. Grazie, fra, dai, a voi vi auguro buon cena e buon tutto. E io c'ero poco fa, poi sono andato a portare il cane con Gianni, anche Gianni è andato, quindi stacchiamo sempre a quell'ora. Ciao a tutte e due, buon proseguo, avanti Antonè, a domani. E io, ciao Claudio, a domani ci sentiamo. Avanti fra. E io, ciao ciao. E tutto vai. In pratica, allora, devi avere 42 anni e 7 mesi. E se lo studiato è una testa per andare in pensione, una persona. Già fa la guerra uno che ha già 42 anni, ma poi da poco cosa non fa, uno non va pochi contributi, no? Una volta si andava, come dire, cioè pochi contributi si andava con la minima, invece adesso ormai niente, da quando è uscita questa roba della Fornero è cambiato tutto. Speriamo che Di Maio cambi tutto. a me non mettono una quota minima di pensione, hai capito? Perché io sono uscito a avere da 46 a 67, hai capito? Anche se c'è scritto il 100% nei fogli, perché io mi sono fatto i conteggi, nel foglio che mi è stato dato a me dal tribunale, c'è scritto il 100%, solo che, hai capito, hanno fatto l'intero da dice, guarda, dice, non puntigliamo, e quindi ho accettato il 77%, sono l'avvocato in tasca, lei si è dato anche in culo, ha capito? E ha accettato quello, adesso, siccome cioè, l'attrito è questo, adesso faccio l'aggravamento, se mi danno il 100% mi figlio immediatamente come si chiama, la pensione è normale, 300 euro, perché faccio l'aggravamento con l'accompagnamento, perché che, l'attrito è una cosa allucinante, ti si piegano le dita con le mani, non riesci per stringere nulla, capito? Così anche i muscoli si attrofizzano, hai capito? E mi sta succedendo quello con la questione della psoriasi, tutto lì. C'ero purtroppo da più di 20 anni e non avevo operare, hai capito? Quindi a un certo punto non riuscivo neanche a salvare, se continua a fare così. Se prendo freddo, immediatamente a me mi butti, mal di collo, poi c'ho delle placche al collo e sono a rischio di infarto, hai capito? Addirittura c'ho la nausea, poi i sintomi che mi giro la testa e cose così, capito? Perché me c'ho il freddo, me l'hanno già controllato e quindi aggiungo le cose come stanno. E se la tocca in culo, se lo vogliono fare bene, se no ricomincio. Io sono rischio di infarto, cosa volete fare? Non mi date niente, non c'è problema, come mi piglio 15 caffè qua, fra 5-10 minuti mi portate a pronto soccorso. E io sono tranquillo. Il foglio già arriva a voi, Enrico. Perché hai invalidità, quello è tutto. Vabbè, invalidità che deve essere. Allora, si è calcolata, se a te te l'hanno calcolata al 100% in tribunale, e dovrebbe essere al 100% anche per i medici, è tutto da vedere per quello. Poi dovrebbero verificare e darti una pensione, dovrebbero dare, sicuramente. Va bene, altrimenti. Scusa, ma mi sta chiamando per andare a mangiare, perché sono rientrato pochi minuti fa, sono rientrato e non avevo ancora cenato. Sì, ci sei dopo e ti faccio una chiamata, vai, qua, sempre qua. Ok, Antonio, ci sentiamo. Sì, dopo io ci sono, non c'è problema. Adesso scendo un attimo dal mio fratello, poi ceno e poi già riprendo qua. Io dopo sono andato sul canale 7 spagnolo. Gentilissimi, guarda. Avevo fatto una bella ruota, c'era uno che parlava in italiano e gli altri dice, guarda, se sono contenti, dice che sei entrato, dice se vuoi far entrare qualcun altro italiano, dice con te, dice parliamo tranquillamente questo. Sul canale 7 spagnolo. Figurati tu. In cosa nel telefonino. Ho fatto un questione quasi un'oretta ieri sera. Certo. Non sono tutti balordi, Antonio, non sono tutti che si aspettano il danno. Ok, Antonio, che mi ha richiamato, ci sentiamo, ciao, a dopo. Ciao, a dopo, ciao.